America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, bene, riprendiamo le trasmissioni dopo una pausa estiva, una lunga estate, che però ci ritrova con gli argomenti di sempre, e cioè la crisi economica finanziaria e la politica. Da quando ci siamo lasciati alla fine di luglio, in realtà agosto è andato molto meglio del previsto in borsa, le cose si sono rimesse in carreggiata. Anche in America la borsa è andata molto bene, pensate, venerdì scorso ha chiuso di nuovo al rialzo, il primo mese d'agosto dal 2009 con la borsa in rialzo. E a dare una battuta di ottimismo venerdì è stato Ben Bernanke, sentiamolo. We certainly cannot continue on an unsustainable path. If we were to do so, in the long term, clearly we would have higher interest. Ben Bernanke ha parlato a Jackson Hole, dove si ritrovano i banchieri centrali in questa conferenza organizzata dalla Federal Reserve di Kansas City, e ha dato un quadro preoccupato dell'economia, cosa che ha lasciato intendere che molto presto la Banca Centrale Americana procederà con una manovra di quantitative easing, quindi una manovra per cercare di portare liquidità all'economia, liquidità al mercato, cosa che, guarda caso, finirà per coincidere grosso modo con quelli che secondo me saranno, dal punto di vista del tempismo, gli interventi della Banca Centrale Europea. Dunque il mercato in questo periodo ha scontato delle manovre accomodanti piuttosto aggressive e in qualche modo, secondo me, anche coordinate delle due grandi banche centrali mondiali. Ma vorrei chiudere con questa parte economica per entrare nel vivo di quella che è la campagna elettorale americana. La convention repubblicana è stata una convenzione caratterizzata così, non da grande energia, non da grande eccitazione, una convenzione piuttosto scontata, ma con un messaggio piuttosto chiaro, e dunque Romney è riuscito a raggiungere gli obiettivi che si prefiggeva. Il suo messaggio è che lui si occupa delle famiglie americane e dei problemi concreti, forse è più noioso e meno affascinante di Barack Obama, ma è in grado di portare delle soluzioni. Barack Obama invece si occupa dell'ambiente, degli oceani, ma non risolve i problemi. Questo è stato un po' il messaggio chiave che ha trasmesso Mitt Romney. L'ultimo giorno è stato il più interessante, il più affascinante, c'è stato un piccolo crescendo. Avrete tutti sentito, saputo di Clint Eastwood, che è intervenuto a sorpresa a questa convention, ma ho con me in studio Paolo Valentino, che era con me a Tampa, che ha seguito proprio questo discorso di Clint Eastwood. Buongiorno Paolo. Buongiorno Mario. Allora, Clint ci ha fatto così un po' di sorprese. È molto divertente, senz'altro la parte meno noiosa di tutta la convenzione. Politicians are employees of ours. It's important that you realize that when somebody does not do the job, we gotta let them go. Ecco Paolo, questa è stata una battuta chiave, perché Clint Eastwood ha dato un messaggio politico piuttosto importante. Bene, dice, i politici sono dei nostri impiegati, noi paghiamo lo stipendio di questi politici, e dunque nel momento in cui non funzionano, beh, se ne devono andare a casa. Quindi una lettera di licenziamento per Barack Obama. Ecco, questo messaggio secondo te è stato efficace dal punto di vista politico? È uno di quei messaggi, di quei soundbite che i repubblicani potranno sfruttare magari in qualche spot televisivo? A mio avviso sì, perché è stato anche ricco di buonsenso, perché la frase chiave che almeno io personalmente ricordo, mi è rimasta impressa di Clint Eastwood, è stata quella che quando lui ha detto quando uno non sa fare il suo lavoro lo mandiamo a casa. Ed è tempo che probabilmente venga un'altra persona a risolvere i problemi che abbiamo. Magari un businessman, ha detto, magari un uomo d'affari. Esattamente, Mitt Romney. E c'è una cosa che mi ha colpito in effetti, devo dire, e cioè che insomma, l'eroe solitario come lo immaginiamo, questo Clint Eastwood con la sigaretta, con la cicca di sigaretta in bocca, solo sguardo e poche parole, in realtà è stato un po' gigione in questa convention. Ha parlato forse un po' troppo, era fuori script, o sbaglio? Era assolutamente fuori script rispetto a una convenzione che era assolutamente disciplinata e che non prevedeva nessuna improvvisazione, che è stata un esempio, se vogliamo, di manifestazione politica dove tutti stanno on message. Ma proprio per questo, secondo me, l'intervento di Clint Eastwood va apprezzato, E in questo senso va reso atto a Mitt Romney, che a quanto pare, da quello che dicono i resoconti dei giornali, è stato lui a insistere perché Clint Eastwood andasse sul palco. È stato proprio questo a dare alla convention repubblicana quell'attimo di follia, quel sale che probabilmente le è mancato. Ma è proprio questa contraddizione, se vogliamo, che invece è questa sua anche gigioneria, appunto, questa l'invenzione della sedia che fino all'ultimo gli strateghi repubblicani non conoscevano. Lui ha inventato il dialogo. Ecco, allora Paolo, scusa, ti interrompo. Facciamo sentire brevemente ai nostri ascoltatori la storia della sedia, perché si è inventato un'intervista immaginaria col presidente degli Stati Uniti. Sentiamolo. What do you want me to tell Romney? I can't tell him to do that. I can't do that to himself. Ecco, qui avete sentito Clint Eastwood che si rivolge al presidente americano e gli chiede, Paolo, cos'è che gli chiede in questa frase particolare? Dillo tu. Beh, gli chiede, dice, cosa vuoi che io dica a Romney? No, ma non posso chiederlo a lui di farlo da se stesso, cioè, insomma, sostanzialmente lui sostiene che Barack Obama gli ha chiesto di mandare a quel paese Romney. E ovviamente lui dice, non posso dirglielo io, non posso chiedergli di farlo da solo, ovviamente. E quindi, insomma, ha continuato a calcare la mano sempre a vantaggio dei repubblicani. Bene, veniamo al messaggio politico, alla convention, perché poi, appunto, alla fine Clint Eastwood è simpatico, importante, interessante, ma poi una nota rispetto a quello che è il messaggio politico. È riuscito Romney a portare a casa i suoi obiettivi, secondo te, come dicevo prima? Romney è stato molto disciplinato e Romney sicuramente ha fatto il lavoro che doveva fare. E quindi in questo senso non c'è dubbio che Romney è riuscito a portare a casa quello che si prefiggeva. La convenzione repubblicana ha lanciato un messaggio: bisogna cambiare. Barack Obama è responsabile della situazione attuale, nel senso che deve assumersi le sue responsabilità e non può continuare a scaricare sul suo predecessore le colpe di quella della situazione attuale negli Stati Uniti. E soprattutto è ritornato, se vogliamo, alla famosa domanda reaganiana, che poi è probabilmente quella che sarà decisiva rispetto all'esito della battaglia di novembre, cioè quello di chiedere agli americani: state meglio oggi di 4 anni fa. You know there's something wrong with the kind of job he's done as president when the best feeling you had was the day you voted for him. Ecco, questo bite è stato proprio in relazione a quello che tu dicevi prima, questo soundbite di Mitt Romney dice sostanzialmente: se il giorno migliore che voi vi ricordate di questa avventura che avete vissuto con Barack Obama è il giorno in cui l'avete eletto, perché c'è stato questo grande sentimento, diciamo, io stesso ero abbastanza così commosso dal fatto che un afroamericano per la prima volta il nostro paese facesse storia in questo modo, eccetera eccetera, dice, però se quella è l'unica cosa positiva vuol dire che in questi 4 anni non è successo granché di buono. Cosa dirà Barack Obama alla convention democratica? Cosa risponderanno i democratici a questa convention che si apre domani a Charlotte? Beh, io potrei rispondere con una battuta, perché in fondo in questa campagna elettorale ambedue i protagonisti hanno detto la stessa cosa. Hanno detto: io non sono Mitt Romney, nel senso che Mitt Romney ha fatto una campagna elettorale dicendo che lui non era quello che era stato in passato, perché ha dovuto concedere molto alla destra del suo partito, quindi cambiando molto delle sue posizioni iniziali. E Barack Obama in fondo ha corso non dicendo cosa vuole fare nei prossimi 4 anni, ma dicendo che lui non è Mitt Romney, perché lui porterà una visione, comporta e predica una visione completamente diversa dalla società americana. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Bene, oggi è Labor Day in America, la festa del lavoro. La festa del lavoro che non si celebra il 1 maggio, ma si celebra sempre il primo lunedì di settembre. Quindi voglio dedicare la canzone del giorno a tutti i lavoratori americani e non, con questa ballata di Woody Guthrie, Union Burying Ground. I see they're lowering a right new coffin. I see they're letting down a right new coffin. Way over in that Union burying ground. And the new dirt's a-falling on a right new coffin. The new dirt's a-falling on a right new coffin. way over in that Union burying ground. Oh, tell me who's that they're letting down, down. Tell me who's that they're letting down, down. Way over in that Union burying ground. Another Union organizer, another Union organizer, way over in that Union burying ground. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!